English Bit di Giulia Crivelli. Commute. Commuting in 2050. We will be traveling to work in hyperloops. In pieno spirito da bilancio di anno e decade che si chiude e di anno che si apre, Financial Times si è chiesto come si muoveranno i pendolari tra 30 anni. To commute è il verbo che indica lo spostarsi per andare al lavoro, come vedremo tra un attimo. La seconda parte del titolo dell'articolo del quotidiano britannico possiamo invece tradurlo con «Viaggeremo verso il luogo di lavoro con degli acceleratori». Ma torniamo a commute, verbo regolare, to commute, commuted, commuted. She commutes from London to Oxford every day. Ogni giorno va da Londra a Oxford per lavoro. He spent one year commuting from New York to Chicago. Trascorse un anno facendo il pendolare tra New York e Chicago. I live within commuting distance from Dublin. La distanza che separa il posto dove vivo da Dublino mi permette di fare il pendolare, diremo in italiano. People are prepared to commute long distances if they're desperate for work. Le persone sono disposte a coprire lunghe distanze per raggiungere l'ufficio se hanno disperatamente bisogno di lavorare. Commute è anche sostantivo. I have only a short commute to work. Devo fare poca strada per arrivare al lavoro. Commute è in parte un false friend. Suona un po' come il nostro commutare o commutazione, nel senso legale, ad esempio, che invece si dice commutation. He obtained a commutation of the death sentence to life imprisonment. Ottenne la commutazione della pena di morte in ergastolo. Tornando al titolo di Financial Times, notiamo la parola hyperloop, iperbole di loop, che significa cerchio, rotonda, ma anche acceleratore di particelle. The road went into a huge loop around the lake. La strada si trasformava in un grande e tondo lungo lago. He tied a loop of rope around his arm. Si legò una corda intorno al braccio. Si può usare anche in senso figurato. His mind kept turning into an endless loop. La sua mente continuava ad avvilupparsi. Loophole è la scorciatoia, in senso negativo. A legal loophole è lo stratagemma giuridico che permette di aggirare una norma. Loopy è una aggettivo che indica il perdere le staffe. He will go loopy when I tell him what you said. Diventerà furioso quando gli riferirò quello che hai detto.